10. Ascolta e controlla. 1. Signora, prende qualcosa da bere? Sì, volentieri. 2. Signora, il suo cognome è Belli? No, il mio cognome è Pelli. 3. Come va lo studio dello svedese? Va così così. Lo svedese è difficile. 4. Hai novità da raccontare? No, non ho nulla di nuovo da raccontare. 5. Di chi è il compleanno? È il mio. 6. Posso avere lo sconto? No, purtroppo no.